in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. E cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore. Come potete immaginare, tutti gli altri rincorrono un po' i dati di ieri sul Covid e gli annunci del governo per il cambio di destinazione delle varie regioni alle varie zone. E comincio dal Sole 24 Ore proprio perché in realtà, come sappiamo, e come diciamo sempre, certo il Covid in questo momento è l'emergenza che domina le nostre vite, ma oltre ai contagi, all'RT, al numero delle persone che hanno perso la vita, al numero delle persone che sono ricoverate, ci sono poi tutti gli effetti, diciamo, collaterali di questi numeri che danno solo l'idea dell'emergenza sanitaria. E cominciamo quindi dal titolo del Sole 24 Ore, che è Manovra, le misure per l'impresa, fondi su export, innovazione e sud, perché siamo al 15 di novembre e quindi ovviamente bisogna anche che la manovra per il 2021, cioè il budget, la decisione, le indicazioni su come e quanti soldi avrà bisogno il nostro Stato per funzionare e come verranno suddivisi, è appunto la legge di bilancio del 2021. Domani, quindi domani lunedì, Conte vede aziende e sindacati. Industria 4.0 prorogata, che è quel sistema di incentivi, ormai la parola incentivi sta cominciando ad avere quasi un'accezione negativa, in questo caso di Industria 4.0 dimostra che gli incentivi costruiti in un certo modo, in questo caso in particolare un meccanismo messo in piedi dall'allora ministro Calenda, serve soprattutto a modernizzare le strutture interne delle aziende, soprattutto tecnologiche, e quindi questo sistema di incentivi, che è stato molto efficace, viene prorogato. Altri 1,4 miliardi per l'internazionalizzazione invece alla Simest, garanzie SACE all'80% a condizioni di mercato per le piccole e medie imprese, perché comunque la si voglia poi analizzare, qualsiasi economia ha un motore che sono un motore principale che sono le aziende. Da qui questa enfasi, è un po' così prevengo anche tutte le critiche che piovono quando si mette troppa enfasi sulla centralità delle imprese in una ripresa, speriamo anche a breve o medio almeno termine, dell'economia. È da lì appunto, è quel motore che va riacceso. Alle pagine 2 e 3 trovate tutta questa disamina di tutte le misure che ne sono contenute nella legge di bilancio per far ripartire questo motore. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche un interessantissimo articolo che poi trovate a pagina 7 di Alessandro Platerotti, che sapete benissimo, gli ascoltatori di Radio 24 conoscono molto bene la sua voce, è stato vice direttore del Sole 24 Ore per molti anni, ora è diciamo editorialista, poi naturalmente lo sentite anche all'interno di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. E Alessandro, forse perché anche ha un pochino più di tempo, visto che non deve più occuparsi, diciamo, appunto di quella mestiere difficilissimo che è il vice direttore, perché bisogna organizzare il lavoro degli altri, quindi analizza molto i dati, quelli che magari sfuggono ai nostri radar o perché non sono di facile lettura o perché di proposito vengono magari tenuti un po' secondo piano. Qui per esempio quello che ci racconta è che i fondi sovrani hanno ceduto asset per 250 miliardi e questa è una delle tante strategie anticrisi, quelle non delle persone, dei singoli, delle aziende, ma dei fondi sovrani. E poi, molto importante, uno si dice anche qui, siamo al 15 di novembre, come sapete l'epidemia è scoppiata in Cina e in Asia in febbraio, da marzo abbiamo cominciato a sentire gli effetti pesantissimi anche in Europa. Siamo al 15 di novembre e al 15 di novembre appunto è pronto il protocollo per le cure a domicilio. E siccome, perché dico... sottolineo questo lungo tempo che è passato, perché all'inizio di marzo, lo sappiamo, è iniziato il lockdown, quindi la maggior parte delle persone erano nelle loro case, quindi anche gli asintomatici o i sintomatici, la la cosa più che viene in mente a buon senso, non ci vogliono premi Nobel, non ci vogliono geni, era che bisognava mettere da subito l'enfasi sul domicilio, sulla cura a domicilio. È il 15 di novembre e abbiamo finalmente un protocollo per le cure a domicilio. Marzio Bartoloni, poi naturalmente anche altri giornali lo fanno, comunque Marzio Bartoloni per il Sole 24 Ore lo racconta a pagina 6. Corriere della Sera, rallenta la curva, primi spiragli, quindi quando dicevo i quotidiani rincorrono i dati, eccolo. E poi vi segnalo dalla prima pagina un'intervista che poi trovate a pagina 13, molto lunga, molto interessante, a Silvio Berlusconi, il sì al bilancio, abbiamo appena detto la legge di bilancio che dovrà passare il vaglio del Parlamento, quindi dovrà essere votata a maggioranza e serve quindi anche naturalmente il dialogo con le forze di opposizione, da qui anche l'intervista, il titolo di questa intervista, il sì al bilancio, ecco che cosa serve, trovate l'intervista a pagina 13. Carlo Verdone compie 70 anni e rilascia molte interviste. Nel titolo che fa il Corriere della Sera in prima pagina c'è sintetizzato tutto. Buon per lui, insomma, dice: non ho eredi, nel senso che non vede eredi alla sua comicità, al suo ruolo di comico e poi anche naturalmente regista e produttore. Dice di non vedere eredi. E poi di non invidiare i soldi di Checco Zalone. Il Corriere della Sera, come tanti altri quotidiani, ha in prima pagina una bellissima foto di Yannick Sinner, che ha 19 anni, è nato 19 anni fa appunto a San Candido in provincia di Bolzano. Ieri ha vinto il suo primo torneo ATP, che sono i tornei quelli più importanti, e questo lo ha fatto diventare subito, per il complicato meccanismo che regola le classifiche mondiali dei tennisti, è balzato subito al numero 37 del mondo. Il racconto bellissimo che fa Gaia Piccardi alle pagine 42 e 43 meraviglia Sinner. In realtà la partita, anch'io ne ho visto un pezzo, è stata bellissima, ma è stato anche, a me ha fatto molto effetto anche il discorso che ha fatto, sembrava davvero e leggeremo poi un commento su questo sulla stampa di Giulia Zonca, sembrava veramente il discorso di un campione, di un uomo maturo, e invece appunto sono parole di un ragazzo di 19 anni al quale naturalmente auguriamo, se questo è quello che desidera, tutte le vittorie possibili e di scalare altri gradini in quella classifica ATP. La Repubblica, virus, ecco il piano per la distribuzione del vaccino. A fine gennaio 1,6 milioni di dosi consegnate dalla Pfizer in 1000 ospedali, indice di contagio in calo ma speranza, con 600 morti al giorno è lunare parlare di cosa faremo a Natale. Questa questione del vaccino, naturalmente, se veramente avesse una si dimostrasse dopo con le ulteriori sperimentazioni che ha un'efficacia del 90%, sarebbe un'efficacia altissima, e in realtà ci sono altri vaccini, pensate, ci sono allo studio nel mondo altri 40 vaccini, una decina circa sono in fase avanzata, quindi come ha fatto l'Economist in una copertina citata spesso a sproposito, quella di venerdì, la copertina dell'Economist diceva hope at last, suddenly hope, cioè la speranza all'improvviso, e all'interno dell'articolo appunto si parlava certo dell'annuncio della Pfizer, ma anche degli altri vaccini che stanno arrivando e anche delle cure. Anche in questo caso la foto è dedicata a Yannick Sinner, una felicità chiamata Sinner. E qui c'è la cronaca di Paolo Rossi e poi un commento di Gianni Clerici, che è stato un grande tennista e poi è diventato scrittore e giornalista sportivo, e soprattutto nella sua lunghissima carriera si è dedicato al tennis. Negli ultimi anni ha scritto soprattutto per Repubblica, poi leggeremo due righe del suo articolo dove comunque parla più di sé che di Sinner, quindi vi citerò poi invece l'articolo di Giulia Zonca sulla stampa. Con la Repubblica in edicola come ogni domenica l'Espresso, e la copertina questa settimana è un disegno di Altan e uno dei suoi personaggi con gli occhi insolitamente super sgranati, che dice non si sa dove scappare, questo è il problema. E naturalmente una c'è tanti articoli su, appunto, su come si sta gestendo questa seconda ondata di emergenza sanitaria, e il tema è un po' questo, che si resta molto disorientati, non tanto di fronte al virus, che appunto stanno forse imparando a conoscere tutti i ricercatori che nel mondo stanno lavorando ai vaccini e alle cure. Tutti noi del virus possiamo sapere molto poco, è disorientante tutto quello che accade intorno nel nostro paese, ma non solo, da chi appunto deve prendere delle decisioni. La Stampa, a proposito di effetti collaterali, ma in realtà molto molto immediati, quasi pavloviani, di una crisi come quella del Covid, che ha paralizzato, è stata un'emergenza sanitaria, è ancora un'emergenza sanitaria e poi è diventata subito un'emergenza economica e sociale, il Covid affonda i conti dell'INPS. Anche qui foto sempre di Yannick Sinner con il suo bel sorriso e i capelli rossi, e che tiene in mano questa coppa del torneo che ha vinto a Sofia. E vi dicevo, c'è un commento in realtà anche di Adriano Panatta, è nata una stella e Adriano Panatta prevede che entrerà presto nei primi 10 tennisti al mondo, ma il pezzo appunto di Giulia Zonca che si intitola, che inizia così: essere un po' Sinner oggi ci farebbe bene. Programmatore, pianificatore, fuori di casa a 13 anni, per seguire la strada meno scontata, perché come ho detto lui è di San Candido a Bolzano, in realtà aveva anche accarezzato, probabilmente anche lì avendo mostrato subito un certo talento, la possibilità di diventare sì sportivo, professionista, ma in uno dei tanti sport invernali che naturalmente per i quali l'Alto Adige ci ha dato tanti campioni, ma lui appunto ha scelto la strada meno scontata, quella del tennis. Il Messaggero: decreto Natale per le riaperture, questa è una delle tante ipotesi, piano in due fasi, zona gialla più estesa al 3 dicembre, zona gialla quindi quella con meno restrizioni, divieti allentati da metà mese, percorso in salita per Lombardia, Campania, Napoli e Trieste, ressa prima del blocco, avete sentito anche nei vari GR e telegiornali. Il Messaggero, il quotidiano di Roma per eccellenza, appunto una di queste interviste che vi dicevo a Carlo Verdone, in questo caso la firma Enrico Vanzina: risate, malinconia, donne, quanto amo i miei 70 anni, che compirà per l'esattezza martedì prossimo, il 17 novembre. Noi ci fermiamo un attimo per una pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci mancano ancora tante prime pagine dei giornali, vi cito quella dell'Avvenire. Oggi è la giornata mondiale indetta dalla Chiesa sul tema tendi la tua mano, e ci sarà una messa del Papa con 100 indigenti, quindi il titolo dell'Avvenire è Dalla parte dei poveri. L'invito di Francesco a fare di questo, aperte virgolette, un tempo per sentire che abbiamo bisogno gli uni degli altri, chiuse virgolette, la risposta della solidarietà ai bisogni emergenti e alle nuove solitudini provocate dalla pandemia. In prima pagina, per fortuna che ci sono quotidiani come l'Avvenire che si occupano anche di tutto quello che sta succedendo nel mondo che non è così direttamente legato al Covid, per esempio in Etiopia. Ora è tutti contro tutti nella guerra del Tigray, migliaia di sfollati verso il Sudan. E poi c'è anche un'emergenza, come in tutte le periferie delle grandi città di tutto il mondo, Milano compresa, naturalmente anche altre città italiane. Questo è un reportage della Caritas da Madrid, pensate, Covid nella baraccopoli senza luce né acqua. Ma il grande tema dell'Avvenire, e a proposito di questo vi cito l'editoriale del direttore Marco Tarquinio, è appunto questo di quello che è, prendendo spunto, naturalmente l'Avvenire è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, quindi prende spunto da questa giornata della mondiale indetta dalla Chiesa sul tema tendi la tua mano, e quindi inevitabilmente Marco Tarquinio parla anche di quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Avete ricordate senz'altro la vicenda dei due più recenti naufragi, e Tarquinio invita tutti noi a guardare anche, appunto dicevo, periferie delle grandi città, ma non occorre neanche andare in periferia, qui a Milano In particolare in questi giorni in cui è tutto chiuso, le strade sono vuote, chiunque vive a Milano, io vivo qui, quindi testimonio di questo, ma penso che ci siano tantissime altre città, piccole, grandi, piccole, medie, grandi, dove è la stessa cosa. Ci sono persone che vivono per strada e che magari in questo paradosso delle nostre città, magari proprio di fronte alla vetrina di un negozio, magari anche un negozio in una via dello shopping di lusso, e quindi non chiudere gli occhi, tendere la mano. E scrive Marco Tarquinio nell'ultima parte di questo breve editoriale che trovate sulla prima pagina dell'Avvenire: cominciamo dunque a guardare e a tendere la mano prima di tutto dove non ci è dato girare al largo, sulla strada di casa e magari verso chi abita nello stesso quartiere, ma insieme là dove i poveri sono oggi meno riconosciuti e meno rispettati, nelle guerre non viste, ho appena citato l'Etiopia, e alimentate anche dalle armi di casa, ricordiamolo sempre. Noi in Italia siamo comunque produttori di armi, le esportiamo, come ogni filiera, se viene toccata viene toccato anche tutta l'industria, quindi le persone che lavorano in quell'industria, pensate al caso Sardegna. Quindi mai affrontare questi temi con leggerezza, chiudiamo le fabbriche di armi, no, però ricordiamolo anche che produciamo armi, così come ricordiamo, lo ricordo sempre, che se è vero che durante i 4 anni di amministrazione Trump non si sono state innescate nuove guerre, è anche vero che l'amministrazione Trump ha siglato il più grande accordo di vendita di armi all'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita e chi le compra non usa quelle armi per metterle vicino al caminetto e guardarle di sera, ma per esempio per radere al suolo quello che resta dello Yemen. Quindi non girare lo sguardo significa anche questo. Ma scrive ancora Tarquinio, nel mare di casa, nel Mediterraneo, dove gli ultimi degli ultimi, uomini, donne e bimbi profughi dai lager libici, sono crocifissi tra torture e morte. E se non ci fosse una piccola barca ONG, la Open Arms, potremmo perfino far finta di non sapere che lo strazio continua. L'Europa e l'Italia hanno chiuso gli occhi, ritratto la mano, spento la voce di quei poveri e la propria. Perché gli europei e gli italiani, potenti e no, hanno paura di essere buoni cristiani e anche buoni diavoli, e non sanno essere giusti. Ma come si può? E fino a quando? E naturalmente, leggendo queste parole, ho anche pensato appunto a chi di parole le ha usate, ma molto diverse, come i commenti appunto a quell'urlo della madre che vedeva il bambino di suo bambino di 6 mesi annegare, è stato recuperato ma non ha superato quello shock, quindi è morto, e lo ricordo, ce l'abbiamo credo tutti nelle orecchie e negli occhi l'urlo di quella madre. Ma c'è chi è riuscito a usare parole non appunto volte a farci guardare quelle situazioni, ma addirittura a farcele giudicare. Il perché una madre abbia preso il suo bambino di 6 mesi e abbia cercato di attraversare il Mediterraneo. Prima pagina del Giornale: beffa fiscale per colpa dell'INPS, quindi anche qui tutto naturalmente legato all'emergenza Covid, salta in extremis il rinvio dei pagamenti per le aziende nelle zone arancioni. Anche in questo caso la foto è di Yannick Sinner, non ritratto durante la premiazione, ma in un momento della partita che appunto ha vinto e poi ha vinto il primo torneo ATP della sua carriera. Il Fatto Quotidiano: De Luca, regalone alle cliniche private, quindi qui si indaga su come la Regione Campania, che da oggi è in zona rossa, sta reagendo al picco di contagi e ricoveri, e il Fatto Quotidiano ci spiega: indaga la Corte dei Conti e il PD difende tutti i governatori. Il Domani, ecco, questo è un tema che trovate molto sui giornali. Ieri ho addirittura, l'unico telegiornale che ho seguito, però dopo questo servizio ho cambiato, ha dedicato a questo 5 minuti su 30, e sono gli stati generali del Movimento 5 Stelle. Il Domani, con il suo direttore, Domani il quotidiano che ha compiuto ieri 2 mesi, perché il primo numero è uscito il 14 di settembre, siccome è sempre una buona notizia, credo, quando si aggiunge una voce nel panorama della stampa dell'informazione, possiamo dire, perché poi il domani, tra l'altro, addirittura era partito con tutta una fase di preparatoria online, quindi proprio è una fonte di informazioni che si dipana tra carta e online. Quindi 14 settembre il primo numero, compie 2 mesi, il suo direttore Stefano Feltri oggi, editoriale in prima pagina, a che cosa serve ancora il Movimento 5 Stelle, e si prende spunto appunto da questi stati generali che per gli appassionati del tema appunto si stanno svolgendo con molte polemiche interne. Ma il pezzo principale si intitola, della prima pagina, "La sanità al collasso uccide anche i malati non Covid". Questo è un tema importantissimo. Nel mio piccolo cercherò di segnalarlo ogni volta, invece appunto di fare gli elenchi dei numeri, perché ne ha parlato tantissimo anche uno dei medici ricercatori, secondo me, più seri e ascoltabili d'Italia, che è Alberto Mantovani, direttore dell'Istituto Humanitas. Lui continua a cercare di ricordarci, e purtroppo credo che molti di noi se lo ricordino solo se ne hanno un'esperienza diretta, del fatto che il Covid, per come è arrivato il Sistema Sanitario Nazionale a questa emergenza, il Covid sta uccidendo, o comunque aggravando in modo molto serio una serie di altre patologie che nulla che hanno a che vedere col Covid. La sanità al collasso uccide anche i malati non Covid, dializzati, cardiopatici, pazienti oncologici. Sono loro a soffrire di più con gli ospedali intasati dal coronavirus, tra visite rinviate, terapie incerte e rischi di infezione. Ah, e sulla crisi del Movimento 5 Stelle, così poi evito anche di citarvi pezzi su altri giornali, ma li trovate sempre sul Domani, una pagina di Lisa Di Giuseppe Gaiazzini da Roma, dove si stanno tenendo questi stati generali. Stati generali del movimento arrivano alla giornata conclusiva, comanderà un gruppo, il leader non potrà avere incarichi di governo, a prendere le decisioni 30 delegati, in gran parte sconosciuti anche ai parlamentari. E il titolo, e vedremo se poi sarà veramente così, "Mai più un capo come Di Maio, i 5 Stelle cambiano". Il Manifesto ha il titolo su Trump più divertente, "La capa bianca". Perché questo titolo? Perché effettivamente nella conferenza stampa che ha tenuto 2 giorni fa, quindi venerdì negli Stati Uniti, per parlare del piano di distribuzione del vaccino Pfizer, ma anche di altri vaccini, Donald Trump è apparso a tutti, non aveva probabilmente fatto il solito parrucco, sapete che in gergo si dice trucco e parrucco, per spiegare quando uno si sistema appunto il trucco, ma anche i capelli, e sono apparsi bianchi, un particolare naturalmente così di folklore, però siccome sicuramente questa è un'epoca in cui anche per la potenza dell'esposizione mediatica, anche grazie ai social network, proprio dell'aspetto fisico dei leader, è un particolare che è stato notato da molti. Sicuramente sono giorni molto difficili per Donald Trump, che ancora non ha ufficialmente concesso, nel senso di traduzione di conceded dall'inglese, la vittoria al presidente eletto Joe Biden. Con questo però ci fermiamo un attimo per una pausa sulla viabilità. In primo piano. Eccoci ancora, buongiorno, insieme per quest'ultima parte della rassegna. Vi segnalo dal Manifesto, abbiamo detto prima, il tema della vendita di armi, e noi in Italia ne produciamo molte. Vi avevo citato un caso che anche spesso se ne è parlato negli ultimi mesi, cioè il caso della RVM, che è un'azienda che produce armi in Sardegna. Naturalmente persone lavorano in quell'azienda. Ecco, il Manifesto approfondisce questo tema, perché tra l'altro vi ricordo che in Italia esiste una legge, direi intrinsecamente ipocrita, la 185 del 90, che vieta di vendere armi a paesi in guerra. Dico perché è intrinsecamente ipocrita, quindi vorrebbe dire che al contrario di quello che sta succedendo, non si potrebbero vendere ad Arabia Saudita e Turchia, essendo Arabia Saudita coinvolte, la prima nel conflitto nello Yemen e la seconda, per esempio, in quello in Siria. Ma intrinsecamente ipocrita, perché ci si chiede se non le vendiamo per fare le guerre, le armi per cosa le vendiamo? Quindi comunque almeno l'Italia questa legge ce l'ha, ma c'è un'idea dei pacifisti sardi, perché naturalmente a queste persone eventualmente, se questa industria della produzione di armi venisse in qualche modo dismessa, le persone che ci lavorano devono avere un'altra occasione. E quindi l'idea dei pacifisti sardi: un caseificio per dare lavoro a operai e pastori al posto di RVM, la fabbrica di bombe lamenta la crisi ma ha ordini milionari per il Golfo e la Turchia. E purtroppo veramente oggi abbiamo veramente poco tempo, però ancora due prime pagine. La Verità, che prima puntata ieri, seconda puntata oggi, i diari del presidente di Open, sapete, la fondazione legata a Matteo Renzi. Toto Benetton TV, giudice soldi, viaggio al termine del renzismo. E invece Libero, scusate perché... ma oggi ci sono certe pagine di giornale che è molto difficile leggere, come appunto tutto quello che riguarda le morti nel Mediterraneo, così lontane, vicine, o così vicine e allo stesso tempo lontane. E però un ascoltatore mi ha fatto sorridere, perché salutando, intanto ringrazio tutti, per tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi a WhatsApp o SMS al 349-238-6666, e naturalmente tutti quelli che ascoltano, e che mi ha mandato un messaggio dicendo: ah, mi dimenticavo, ti saluta Pietro Senaldi. E non aggiungo altro, a parte appunto un sorriso che è riuscito a strapparmi. La prima pagina di Libero di oggi, il suo direttore, appunto condirettore insieme a Vittorio Feltri, Pietro Senaldi, firma una lunga intervista al governatore della Campania. Il titolo è Lo sfogo di De Luca, per chi suona la campagna: il governo sbaglia strategia, rincorre il virus invece di prenderlo, com'è possibile passare da zona gialla a rossa in 3 giorni, e demolisce De Magistris e Speranza. E se non ci fosse da ridere, naturalmente ci sarebbe da piangere. Torniamo un attimo velocissimamente su Sole 24 Ore, l'inchiesta di Alessandro Praterodi, pagina 25, Fondi Sovrani. E poi un bel incontro di Eliana Di Caro con Linda Laura Sabbadini, che lavora all'Istat dal 1983, una grandissima esperta, una delle più grandi esperte mondiali di statistica. Per farcela servono passione, competenza e determinazione. Quindi naturalmente si tocca il tema della scienza statistica, che è una scienza molto affascinante, ma anche che naturalmente dà poi dei dati che devono essere, prima vanno raccolti, poi analizzati e poi naturalmente saranno interpretati, ma parla anche in generale dei percorsi che possono fare le donne anche all'interno di discipline legate alla matematica come la statistica, e poi delle istituzioni. Da Mani sul volante, l'inchiesta di Paolo Bricco sull'ILVA, a pagina 14. Mani sul volante perché fa venire tanta rabbia ma anche tanto dolore. ILVA bruciati in 8 anni quasi 50 miliardi di PIL. La produzione in caduta da 10 a 3,2 milioni di tonnellate ha avuto un impatto sistemico che ha coinvolto l'indotto, l'export e lo Stato. 8 anni, quindi non c'entra praticamente nulla con l'emergenza Covid. Ultima segnalazione dal Sole 24 Ore di oggi, anzi ultime due, la consueta pagina di Sport e Business, oggi dedicata allo sci. Mario Nicolello ci racconta Circo Bianco in pista per un business da 40 milioni. E poi la consueta sezione Lifestyle, un bellissimo lungo articolo di Maria Teresa Montarulli. Piccole Greenway crescono a passi lenti. Greenway è un nome mutuato dall'inglese, perché per la prima volta sono stati i primi gli inglesi, letteralmente vuol dire via verde, sentiero verde, ma in questo caso sono quelli che nascono dalla dismissione di vecchi binari o vecchie strade, ex ferrovie, dal cicloturismo, una spinta a ultimare tanti cantieri aperti in Italia, Franceschini e il piano per la famosa Adriatica. Purtroppo tutte le altre segnalazioni dalle pagine interne dei quotidiani non ho tempo di farvele, e quindi passo ai supplementi domenicali. Come sempre cominciamo dal Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Un trattino. La citazione è questa: la sua vita è ormai un piccolo trattino tra due date. Scrive Ravasi: il lettore rimarrà un po' sconcertato davanti alla citazione che abbiamo proposto. In verità essa sottende un'idea di forte intensità. Diciamo prima di tutto che la frase è desunta da un testo di Hajime Scholl, una poetessa ebrea di origine ungherese molto amata in Israele. Essa sta evocando Olav Hauge, un autore a me del tutto ignoto e a quanto pare non memorabile. Ecco allora l'intuizione che può essere applicata a ciascuno di noi. Per tutti, infatti, sulla lastra tombale saranno incise le due date fondamentali, l'iniziale e la terminale. Ma spesso, a spremere gli anni racchiusi tra quei due estremi, si potrebbe dire che la vita è stata solo un trattino. Non solo perché ogni esistenza umana è un atomo nell'immensità della storia, ma anche perché, come dice il salmista, quando anche avessimo avuto 70-80 anni, il loro agitarsi è fatica e delusione, passano presto e noi vogliamo via. Un bagno di umiltà, certo. Tuttavia la scia che rimane di noi può essere luminosa quando è intrisa del bagliore dell'amore, qualità divina e quindi eterna. E dal Sole 24 Ore questa settimana un altro articolo che vi segnalo di Gianfranco Ravasi, visto che abbiamo parlato di sofferenza, bioetica e cura. La centralità dell'uomo nella sofferenza è sostanzialmente la recensione di due libri, Curare la persona, medicina, sanità, ricerca e bioetica nel pensiero di Carlo Maria Martini, scomparso nel 2012. E poi La vita non è un peso, altrimenti non riuscirei a risollevarlo. Questo è un libro pubblicato alla Nave di Toseo di Michele Lapusata, e appunto Gianfranco Ravasi cerca di affrontare questo tema, anzi affronta questo tema, siamo noi che dobbiamo cercare di affrontarlo con lui. Pensieri del cardinale Carlo Maria Martini su sanità, medicina e ricerca in relazione con la dimensione sociopolitica e con la scienza. E poi questa testimonianza appunto di Michele Lapusata, che è malato di SLA. Eliana Di Caro, oltre a firmare il bell'incontro con Lidia Laura Sabbadini, recensisce anche una biografia di Steffi Graf. Tra l'altro Eliana è una bravissima giocatrice di tennis, quindi credo ci abbia messo una passione particolare a leggere questo libro e a scrivere la recensione. Steffi Graf a colpi di eleganza, la lettura del Corriere della Sera, copertina affidata a Giuliano Vangi. E poi all'interno vi segnalo un testo arrivato al Corriere dalla scrittrice Antonia Aslan, che è una scrittrice di origini armene, che ha scritto dopo gli ultimi sviluppi sul fronte del Nagorno-Karabakh, proprio mentre armeni e azeri arrivano a un cessate il fuoco, e che segna il rafforzamento di Putin. Ira e dolore, gli spettri del Caucaso. Erano ancora tantissime le segnalazioni, ma se acquistate un po' di giornali oggi in edicola vedrete anche voi quanti spunti di riflessione, e per conoscere un pochino di più il mondo e appunto fare quel lavoro di tendere la mano, aprire gli occhi vicino e lontano. Era ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, grazie a Peter Bescapè in regia, e ci sentiamo domani con Effetto Mondo.